filosofo. Quindi possiamo praticamente, considerando l'intervento, considerando la tipologia dell'argomento e gli inviti che abbiamo fatto a più di una provincia, quindi pensavo che stasera l'aula comunale fosse un po' più piena e che l'argomento generasse interesse e non solo la provincia della colazione, se no forse non è così. Comunque, porgo il saluto da parte della provincia, diciamo del commissario della provincia, che non è presente perché fuori sede, quindi verrà qui, però ha telefonato oggi poi nel pomeriggio, ecco, assicurando il suo interesse per l'argomento e il saluto a tutti i presenti. Così come desidero porgere il saluto da parte del presidente dell'Unione degli Iblei, anche il sindaco del comune di Cucca, che è impegnato stasera in una seduta di consiglio comunale già preventivamente convocata. Abbiamo invitato diverse organizzazioni sindacali, abbiamo invitato le diverse categorie di agricoltura con diretti e infine abbiamo invitato anche con grande piacere la cooperativa Apollo e mi onoro di salutare la segretaria Concetta Gianzina Bussa, che è non solo per la sua presenza ma per l'intervento che farà subito dopo. E l'idea di fare il consiglio trattando questo argomento è venuto da un invito specifico da parte dei consiglieri di minoranza che io poi ho subito condiviso con l'amministrazione e con il gruppo di maggioranza. Credo che sia giusto che questo argomento, che è di notevole interesse e di grande importanza non solo per la produttività palazzolese, venga discusso qui e qui solo in Consiglio Comunale, perché come spesso ho avuto motivo di affermare durante la mia presidenza, e questo è l'unico luogo in cui è giusto incontrarsi per portare le problematiche, cercare le soluzioni, in ogni caso è l'unico luogo in cui si può dialogare, confrontarsi per dare seguito a quello che è il mandato che ci hanno dato ovviamente gli elettori di parlare delle problematiche della comunità palazzolese. Quindi prima di passare la parola al consigliere Frangello, la seduta ha chiesto al consigliere Frangello ecco, di registrare in modo che così possa poi rimanere agli atti. L'argomento di stasera è un argomento che a mio parere è di grande interesse, perché chiaramente spesso anche troppe volte si è parlato di Fico Macello, si è parlato in campagna elettorale, se ne è parlato, se ne è sparlato, ci siamo confrontati e abbiamo anche avuto un motivo di scontro. Quindi è bene che stasera noi per primi consiglieri comunali, ma comunque i cittadini anche presenti, possono venire a conoscenza dello stato attuale dell'opera. L'opera che è di grande interesse perché porterà sicuramente ad un rilancio di quella che è l'economia non solo della comunità palazzolese ma del comprensorio, per la possibilità della valorizzazione della zootecnia del territorio ibreo, della possibilità di dare una porta all'amore e di dare spessore alla filiera delle carni e quindi al rilancio anche dell'intero indotto. Spero che ci siano interventi basati sempre su un confronto sereno finalizzato alla crescita comune e a dare un contributo che sia interessante per noi tutti. Quindi do subito la parola al consigliere Francesco come primo firmatario della. Grazie Presidente, io intanto desidero ringraziare l'amministrazione per aver accolto questa richiesta. Intanto ci tengo a specificare che la richiesta di convocazione di questo Consiglio aperto è stata sottoscritta volutamente come appartenenti a questo Consiglio e non come gruppo consigliare, perché c'era la finalità di rendere l'argomento condiviso e condivisibile un po' con tutto il Consiglio. E in effetti poi è stato così, in effetti è rivolto nell'interesse di tutto il Consiglio e quindi del territorio che il Consiglio rappresenta questa richiesta e questa necessità. Questa richiesta nasce da una serie di considerazioni. Inizio citando dalla relazione annuale del Sindaco, in cui si prende atto ufficialmente, anche dopo tanto silenzio, della presenza di un mattatoio comprensoriale in via di definizione nel territorio comunale, con le sue problematiche di gestione e i rischi che la struttura corre una volta completata. Inoltre, l'assenza dell'argomento mattatoio dell'ordine del giorno, sì, dell'ordine del giorno di una qualunque seduta consiliare che potesse consentire a noi rappresentanti dei palazzolesi di comprendere e fare proprie, pur limitatamente alle nostre competenze, tutte le problematiche legate ad una delle infrastrutture più rilevanti mai realizzate con denaro pubblico nella zona montana. Abbiamo la convinzione che consigli comunali interessati possono essere e siano, debbano essere legittimati tramite interventi ed atti di indirizzo a garantire il perseguimento delle finalità del patto territoriale, che aveva appunto come finalità lo sviluppo delle imprese agricole che operano nel territorio. Inoltre l'apprendimento della notizia dell'imminente conclusione dei lavori ci ha portato poi a rispondere invece di una carenza di informazioni sugli strumenti di gestione dell'opera. La costituzione di una cooperativa di operatori agricoli appartenenti ai comuni dell'Unione che possono avere evidenti, giustificate aspettative verso quest'opera, l'individuazione in una delle tante varianti del progetto del sistema di depurazione dei reflui tramite fossa IMOF, con successiva autorizzazione agronomica degli affluenti ai sensi dell'articolo 112, legge 152 2006 e secondo la normativa nazionale e regionale vigente, che impone ed individua quali operatori certi di gestione gli allevatori del territorio e gli operatori agricoli aventi i requisiti necessari. Inoltre, la notizia è che il sindaco di Palazzolo, in un'articolata lettera, ha chiesto al Libero Consorzio dei Comuni, la ex provincia, la gestione in uso dell'infrastruttura mattatoio comprensoriale, con condivisione della stessa richiesta da parte degli altri comuni dell'Unione, senza che si conoscano però i termini dell'accordo. La carenza annunciata delle attrezzature e degli strumenti previsti dal bando di rimodulazione del patto territoriale e dal progetto originario, che sono necessari per un'immediata gestione e che probabilmente si suppone siano stati determinati dalla serie di varianti che hanno di fatto bruciato e sbilanciato verso altre destinazioni le risorse ad essi destinate. Le difficoltà economiche degli operatori agricoli eventualmente interessati, che già sono stati frequentemente vittime di scelte politiche ingiuste e dannose da tutti i livelli, come abbiamo visto anche l'ultima volta quando si parlava di matricola, e la scontata impossibilità di accesso al credito, che dovrebbe suggerire alla comunità politica, ai sindaci e alle amministrazioni altri tipi di strumenti, ad esempio un'associazione temporanea di impresa, che possono, anche se in via provvisoria, risolvere i problemi e consentire l'avvio anche con gli strumenti già disponibili nei vari comuni. Si tratta ovviamente di considerazioni, unitamente ad altre che possono scaturire anche dal dibattito di questa sera, che riteniamo utili per mettere un punto fermo sullo stato dell'opera e soprattutto sul futuro che quest'opera avrà. L'auspicio è che il territorio, che è quello indicato nel patto, non venga scippato di un'opera rilevante, realizzata con denaro pubblico con le finalità del solo sviluppo del territorio e delle imprese agricole. Saluto anche io il sindaco Amendo. Dicevo, l'auspicio è che il territorio, che io ho indicato con la T maiuscola, quindi quello indicato nel patto, non venga scippato di un'opera rilevante, realizzata con denaro pubblico con la finalità del solo sviluppo del territorio e delle imprese agricole. Non risultano dalla documentazione tecnico-amministrativa del progetto altre finalità da perseguire. Il loro mancato perseguimento, di contro, registrerà per la nostra comunità un ulteriore fallimento e la certificazione della definizione, per l'opera appena realizzata, di cattedrale nel deserto, al pari di altre già presenti nel territorio. Territorio che non necessita di ulteriori esempi di spreco di denaro pubblico, con precise responsabilità in parte già suggerite ed individuate nei dibattiti avvenuti in questo Consiglio, che segnerebbe indubbiamente un'ulteriore sconfitta di quella politica sana che, come intero Consiglio, pretendiamo di rappresentare. Concludo con delle considerazioni. Va senza dubbio riconosciuto che il frigo macello o mattatorio comprensoriale è almeno potenzialmente da intendersi come un'opera importante per il nostro territorio. Eppure, almeno fino a ieri, per questo Consiglio esso è stato considerato alla stregua di un oggetto misterioso, probabilmente per tentare di camuffare e non alimentare l'evidenza di un conflitto di interesse, arrivando addirittura a negare l'esistenza di una documentazione attinente presso l'ente comunale. Per alcuni mesi abbiamo volutamente tralasciato le polemiche, considerate le difficoltà nel procedere ad un sereno dibattito, registrando anche l'insensibilità fuorviante di chi avrebbe dovuto garantire una regolare vita amministrativa. Tuttavia parliamo di un'opera che è stata il fulcro delle ultime campagne elettorali di questa amministrazione, che suscita l'interesse e le aspettative dei tanti operatori del settore, che oggi vivono un momento particolarmente difficile, ed anche la diffidenza e il sospetto di molti che invece vi intravedono l'ennesimo esempio di opera pubblica utile non certo al territorio. Ricordiamo che il progetto di mattatoio comprensoriale è il frutto del patto territoriale agricolo Valdanapo ed è stato definito sul bando di rimodulazione del patto stesso, redatto dalla società incaricata Europrogetti e Finanza, come infrastruttura pubblica di tipo socio-economico. Con ciò si intendeva l'opera come a servizio e per lo sviluppo del territorio, in linea con le finalità perseguite dal patto territoriale, che, citando il bando, attivano un'articolata fase di sviluppo grazie ad idonee infrastrutture che agevolino lo sviluppo delle aziende da insediare, nonché alle insediate. Pertanto si predisponeva la realizzazione di un'infrastruttura, l'acquisizione e posa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie, nonché la realizzazione delle opere esterne a servizio per un finanziamento complessivo di 4,5 milioni di euro. Dalle basi del progetto è possibile evincere facilmente le evidenti responsabilità politiche e gestionali gravanti sull'opera, legata ad un patto le cui finalità trovano in definizione nella deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, dalla Gazzetta Ufficiale numero 499, avente per oggetto l'estensione degli strumenti di programmazione negoziata anche all'agricoltura. La delibera evidenzia essenzialmente la necessità di garantire una partecipazione adeguata e duratura dei produttori dei prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano, favorire la partecipazione del settore agricolo al processo di sviluppo economico locale, favorire l'integrazione economica di filiera e l'organizzazione dell'offerta. Come ricordava l'allora sindaco di Palazzolo in una lettera datata 17 aprile 1998 ed indirizzata alle massime autorità dello Stato e dai segretari nazionali delle forze politiche dell'epoca, il patto territoriale, tra i primi ad essere portati a compimento, aveva suscitato grande soddisfazione ed entusiasmo tra gli imprenditori e le forze sociali e politiche, autori di una strategica concertazione dal basso, partita dal territorio e tesa, citando la lettera, a far emergere una voglia imprenditoriale senza la quale il Sud non potrà marciare verso l'Europa. Un territorio al quale quest'opera dovrà necessariamente rivolgersi per essere ritenuta utile, efficace ed efficiente e fedele alle finalità per cui è stata ipotizzata. Diversamente saranno gli scetticismi e i sospetti ad aver trovato più di un fondamento. Grazie. Presidente, dottor Agronomo Giuseppe Messina, mi ha incaricato di leggere il seguente intervento e si consiglio comunale, con i consiglieri comunali e l'amministrazione tutta, e con i presenti, per l'assenza in quanto fuori sede per motivi di lavoro. Passo alla lettura, ringrazio anticipatamente per l'attenzione. Mi preme innanzitutto ringraziare i decisori politici che hanno voluto questo incontro per discutere di una questione che non appartiene alla categoria dei imprenditori agricoli, ma all'intera comunità dei problemi, con le sue implicazioni nel caso si vada in una direzione o in un'altra. Un ringraziamento particolare va al Presidente del Consiglio Comunale che con tempismo ed efficienza ha posto in essere l'iniziativa in parola. In una situazione di smobilitazione generale, di emarginazione del settore agricolo e della zootecnia, in particolare, una dozzina di anni fa l'amministrazione provinciale decise di realizzare nell'area montana, estremamente nel comune di Palazzola Etere, centro del territorio dei Liblei e baricentro fra due province e sedi spiccatamente agricolo e zootecnico, Ragusa e Siracusa, un frigo macello. La possibilità di realizzare l'opera si creò con l'impatto territoriale per l'agricoltura valdana, utilizzando le economie di interventi privati i cui titolari avevano rinunciato ai finanziamenti e superando le logiche spartitorie in funzione di favorire l'intero territorio per un'opera di interesse comune. Non possiamo parlare in senso stretto di programmazione, ma di un'opportunità occasionalmente fornita. Paradossalmente, se quegli imprenditori non avessero rinunciato ai finanziamenti per i quali avevano pure sottoscritto l'impegno, stasera non saremmo qui a discutere del frigo macello. C'è da chiedersi quindi se la scelta voleva essere una risposta in cui, nolenti o volenti, l'agricoltura costituiva e costituisce la salvaguardia dell'economia di un territorio ridotto, suo malgrado, ad abolità totale attraverso i suoi beni paesaggistici, monumentali, archeologici e culturali, destinata al patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO e nel quale l'agroalimentare è il fondamentale collante per la riqualificazione e il rilancio dell'economia dell'intero territorio ibero. Se così è, appare logico che il valore aggiunto che si realizza con l'attività di macellazione sia assicurato all'allevatore e quindi al territorio ibero, oppure se la scelta è stata una semplice operazione di facciata, frutto degli uffici preposti che non sapevano cosa fare. Vedremo questo nei fatti. È però da ricordare che con il protocollo d'intesa sottoscritto il 4 aprile del 2013 dai 7 sindaci dell'area Ibera, il presidente del CAD e il presidente della provincia regionale di Siracusa, con l'obiettivo di coordinare le azioni di valorizzazione del mattatoio comprensoriale di Palazzola Etere, vengono definiti i principi quadro dell'affidamento a terzi del servizio di gestione del mattatoio comprensoriale. In essi, pur riconoscendo l'importanza della struttura a servizio del territorio e degli allevatori, veniva ipotizzato un gestore privato che operasse nel solco di una gara ad evidenza pubblica della forma del pubblico in campo, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con la perizia di variante del 9 agosto del 2013, approvata con determina dirigenziale numero 75, in considerazione del particolare stato di crisi in cui versa l'intera filiera delle carni in Sicilia, si decide di 1. Ridurre i costi legati ai consumi energetici e quelli relativi all'impianto di depurazione. 2. Attrezzare la zona alla lavorazione carne, destinandole maggiore spazio e dotandola di attrezzature per il sezionamento e il confezionamento delle carni pronte per la commercializzazione. 3. Prevedere all'interno del bando per la gestione dell'opera delle condizioni che consentono l'effettuazione della fertilizzazione attraverso l'utilizzazione dei rami del mattatoio. Il nostro punto di vista, per capire l'importanza dell'iniziativa, quale probabile ultima possibilità per il rilancio dell'allevamento da carne, occorre capire i segnali, quali impercettibili, di crescita del comparto della nostra provincia. Segnali che dovrebbero trovare un riscontro coerente con le scelte delle decisioni politici, se non si vuole affossare definitivamente quel poco che gli imprenditori da soli sono riusciti a costruire in questi anni. La vicenda del frigo macello va vista dunque alla luce di questi fatti. Se si considerano i risultati della politica agraria in Sicilia negli ultimi 40 anni, scaturisce un bilancio decisamente negativo che si può rappresentare nella capacità autoapprovvigionamento alimentare della regione, che scende da appena il 20% nel suo complesso, al 25% per il latte e al 20% per la carne. Un disastro di dimensioni epocali, nonostante i miliardi spesi per i vari PSR, per la ricerca, la sperimentazione, e che ha fatto del nostro territorio un luogo di conquista per chiunque ha da rendere del cibo per gli oltre 5 milioni di abitanti di quest'isola, o collocare concimi, mangimi, materie prime, animali da allevare e quant'altro, ai sempre meno imprenditori costretti a fare quel mestiere per mancanza di alternative se non quella di emigrazione. Con i sistemi produttivi adottati, la zootecnia perde e i benefici vanno ai mangimifici, ai produttori di integratori, alle case farmaceutiche, ai macellai e ai ben noti gruppi industriali che rastrellano i prezzi che vogliono le vacche fine carriera per fare hamburger, così come i videofoni, eccetera, per non parlare dei latte. I dati che si convengono da sé non lasciano spazio a alcuna spiegazione o giustificazione e che hanno avuto e hanno una grave ripercussione sull'occupazione, sull'assetto del territorio, sulla tenuta dei suoli, sulla qualità del cibo. Qui non si produce latte o carne senza alimenti geneticamente modificati e quindi sulla salute e la qualità della vita dei siciliani, ripercussione anche sul piano culturale che ha reso l'agricoltura un settore marginale. Seguendo la linea del ragionamento fin qui sviluppato, appare del tutto evidente ricordare come, in primo luogo, non si può risolvere un problema usando lo stesso mentalità che lo ha creato, come giustamente sostiene Basta. In secondo luogo, nel prendere atto che le risorse pubbliche spese in questi 30 anni in agricoltura e nella zootecnia non hanno di fatto generato alcun beneficio per gli imprenditori agricoli, per il territorio e per i consumatori, occorre pensare ad un nuovo modello che metta al centro l'agricoltore, l'azienda, il suolo agrario e il territorio, la sostenibilità ambientale e la qualità del cibo da offrire ai consumatori. Il frigo macello, in questo ambito, costituisce quindi una tessera fondamentale del nostro ragionamento. Le problematiche legate al frigo macello e alla conseguente proposta per la gestione si possono riassumere, a nostro parere, in due insieme: le questioni tecniche e finanziarie e il percorso amministrativo. Le questioni tecniche e finanziarie. In questo ambito esistono due ordini di problemi legati, il primo al mattatoio in senso stretto, il secondo alla fase di avvio e al capitale di esercizio occorrente per intraprendere l'attività del mattatoio. In linea di massima esprimiamo un giudizio largamente positivo sulla struttura e sulla qualità della realizzazione. Le varie modifiche al progetto programmate consentirebbero inoltre di realizzare una lavorazione e parziale trasformazione della carne, qualora si procederà all'acquisto dei beni relativi. L'opificio tuttavia presenta, dal nostro punto di vista, alcune insufficienze. Primo, aree di scarico degli animali vivi, linee di macellazione suini, assenza di locali per la guardia, apertura e chiusura automatica del cielo principale, gruppo elettrogeno, macchinario per l'allontanamento rapido e meccanizzato degli storici. Numero 2, Bobcat, gru per sollevare, cisterne, macchinari, eccetera. Arredo e ufficio, mobili, PC, eccetera. Carro, botte e squandi di pane. Camion per trasporto animali vivi. Furgone frigo per trasporto carne. Attrezzatura di riserva per la macellazione, torfederia, eccetera. Riteniamo che per quanto riguarda il camion per trasporto animali vivi, il furgone frigo per trasporto carne, le attrezzature di riserva per la macellazione, porteneria, eccetera, si potrebbero utilizzare con la proposta di seguito illustrata, in quanto in possesso dal comune di Palazzolo per effetto della dismissione del mattatoio comunale, contestualmente all'apertura di quella intrattazione. Alla mancanza degli altri macchinari, eccetera, si dovrà necessariamente far fronte con capitale da parte dell'ente gestore, cui si aggiungeranno le spese relative ad un'assicurazione contro furti, incendi e attentati, oltre alla provvista necessaria per far fronte a tutte le fasi di avvio, pagamento personale, materiali di consumo, energia, acqua, smaltimento di rifiuti, eccetera. È bene sottolineare che le problematiche della gestione di un mattatoio, oltre alla contrazione dei consumi della carne che rende più rischiosa la gestione, ruotano attorno ai costi energetici, corrente elettrica e acqua, e quello del suo smaltimento dei rifiuti al personale. La possibilità della fertilizzazione, mentre risolverebbe parzialmente i costi energetici, non risolverebbe quello del costo dell'acqua e del suo spreco, da 300 a 500 litri per unità, unità 2 minuto, in quanto non è stato previsto presso gli ambiti motivi finanziari un riutilizzo, cosa che invece andrebbe verificata in termini di costi già da subito. Si pone inoltre la necessità di realizzare un impianto per la produzione di biogas da rifiuti organici prodotti nel mattatoio e magari un impianto fotovoltaico per abbattere i costi dell'energia elettrica, mentre per il riscaldamento del tappo per la lavorazione dei suini, macellati, eccetera, questo verrebbe assicurato al metano. Si ricorda infine che ancora l'ENET non ha provveduto a installare la cabina, mentre non è dato sapere se qualcuno dei responsabili deciderà di utilizzare il passo d'asta, nell'attesa che il Ministero dello Sviluppo Economico prenda una decisione sul punto e proponga quindi una variante zanabria. Non è stato previsto infine nel rapporto l'obbligo all'impresa costruttrice di gestire almeno per 24 mesi il manufatto, cosa del tutto normale per lavori pubblici del genere. Tale fase di gestione sarebbe servita per verificare l'effettiva funzionalità ed efficienza degli impianti, anche da un punto di vista dell'economicità, oltre che ad evidenziare ed eliminare eventuali vizi. Di tanto si dovrebbe tenere conto della proposta e ipotesi di gestione. Con queste premesse appare del tutto illusorio ipotizzare che la gestione del Trigo Macento possa essere affidata a un soggetto diverso da un gruppo industriale o finanziario, e non certo una cooperativa di semplici allevatori, ammesso pure che ci sia questa volontà sul piano politico e conseguentemente su quello amministrativo, sui quali peraltro si è tentato a fare i livelli circostanti di non far costituire il percorso amministrativo. Il ragionamento su cosa fare sul piano amministrativo deve partire, a nostro giudizio, dalla variante del 9 agosto 2013. Con tale perizia, di fatto, il protocollo d'intesa viene annullato, posizionando gli allevatori come primo soggetto giuridico per la futura gestione del Trigo Macento e inserendo questo quale segmento del ciclo di produzione della filiera. Il protocollo tuttavia non è stato né revocato né modificato, né si hanno notizie circa atti o azioni come previsto dall'articolo 5 del citato protocollo del coordinamento politico-amministrativo, o magari di semplici iniziative politiche e amministrative. Fatto sta che nel novembre 2014 è nata la cooperativa Zootecnica Polo, che raccoglie ben 18 aziende con una produzione annuale di bovina macellare che supera il migliaio, oltre al suino nero siciliano, eccetera, e che prevede già per statuto la possibilità di applicare la certificazione così come previsto dalla citata normativa. È da ricordare inoltre che nell'ambito della cooperativa esistono ben 6 aziende che producono con il metodo biologico, con conseguenze dirette circa le norme dell'organizzazione interna del centro. Conclusione. Occorre innanzitutto sottolineare che è essenziale considerare, prevedere e attuare un periodo di avvio dell'impianto per almeno 24 mesi, a cura del gestore e con oneri a carico dell'ente o se dovessero emergere vizi o problematiche connesse all'effettiva funzionalità del Trigo Macento alla ditta costruttrice. In secondo luogo è bene che i decisori politici dichiarino da subito se l'impianto deve rimanere per la gestione del territorio assicurando il controllo pubblico e con la determinazione di restituire il valore aggiunto al settore zootecnico in generale e agli allevatori in particolare, organizzati e strutturati non escludendo opportune collaborazioni o associazioni o effettuare una gara ad evidenza pubblica del lavoro del pubblico in campo, con il criterio di offerta economicamente più vantaggiosa per la ex provincia. Questa è una scelta politica. Da quanto precede, a nostro modesto avviso e breve verifica sul percorso amministrativo, si possono prefigurare due scenari possibili. Uno, una gara d'appalto aperta al miglior offerente che presenti il titolo di legge, che è sufficientemente dotato di risorse e di esperienza, sia nelle condizioni di gestire l'opificio nel suo proprio interesse, con tutti i rischi che tale scelta, se risultasse errata, potrebbe avere sul territorio e sull'economia locale. L'attribuzione da parte dell'ex provincia, quale concessionario o altra forma giuridicamente corretta, al Comune di Palazzo Grande che, nell'ambito delle sue prerogative, potrebbe promuovere forme di gestione che rispettino le seguenti condizioni. Una società mista costituita da un socio pubblico e almeno due soci privati, di cui uno che possa portare alla propaggine di capacità imprenditoriali e gestionali e in grado di poter affrontare anche economicamente la difficile fase di start-up, e uno costituito da operatori locali, opportunamente organizzati, che garantisca la qualità delle carni, la possibilità della fertilizzazione di terreni vicini, giustificando un investimento così importante con un altrettanto importante impatto sull'economia locale. Ai soci privati spetterebbe di svolgere le prestazioni definite in modo chiaro e preciso nelle convenzioni e rientrante l'oggetto sociale. Il socio pubblico svolgerebbe il ruolo del controllore in seno agli organi decisionali dell'impresa comune. Va osservato infine che tale proposta non realizza una privatizzazione del servizio dal momento che il governo resterebbe in capo all'ente pubblico, visto anche che la maggior parte dell'attività sarà svolta a favore dell'ente, comunità locale e quindi territorio affidante. Altro aspetto rilevante è che eventuali ulteriori infrastrutture, quali l'impianto di biogas e altro, potrebbero realizzarsi come opere pubbliche con tutti i benefici formali e burocratici immaginabili. La cooperativa Apollo è sufficientemente dotata di competenze ed esperienza, maturate da diversi soci nell'ambito dell'attività di commercializzazione, macellazione, lavorazione e trasformazione di numerosi anni di attività, oltre naturalmente a mettere a disposizione le risorse umane per il lavoro e i terreni per la fertilizzazione. L'ente, tuttavia, per la sua recente costituzione, non dispone allo Stato delle risorse necessarie per far fronte in toto per la gestione e funzionalità del primo macello. Un secondo partner privato, con specifiche caratteristiche, potrebbe completare il quadro della struttura manageriale dell'intrapresa. Vi ringrazio per l'attenzione, dottor Adriano Giuseppe Messina, presidente della cooperativa. Grazie. Prego, c'è anche dal pubblico chi vuole intervenire. Aspettiamo qualche intervento dai privati, da chi ha qualche interesse sull'argomento. Chiaramente non c'è nessun tipo di non voler parlare, è stata una richiesta specifica da un gruppo che vuole poter parlare, per sentire anche quelle che possono essere le attese, come quelle sue espresse così, e, diciamo, da parte sua e da parte di altre presenti. Consigliere Carlo, prego. Si faccia il gioco del silenzio questa sera, c'è stato perché penso che ognuno di noi qui dentro abbiamo un'idea sul primo macello, soprattutto l'amministrazione, il sindaco, un po' tutti i consiglieri comunali e i privati. Se si è convocato un consiglio comunale dove per discutere, è giusto che ci sia un'interazione di idee e un confronto, perché poi io posso avere un'idea, ma nel confronto posso, diciamo, rimodulare quello che penso ascoltando gli altri. Io posso dire la mia idea su quello che deve essere, su come c'è, come dovrebbe essere gestito. Abbiamo cercato l'idea di diversione del dottore Messino, voglio dire, mi sembra che abbia fatto un'analisi molto appropriata. Non so. da rispendere. Parlo delle regioni del nord, parlo dell'Europa in genere, di nazioni più ricche della nostra, che oggi non hanno la crisi che abbiamo noi. Quindi ci sono scenari di cui noi, voglio dire, con la nostra, anche se voglio dire, possiamo avere una conoscenza ma limitata, ma che possiamo pure immaginare. Gracias. pensare, io potrei pensare, io come Martin Luther King diceva, io ho un sogno, e il sogno, penso che il sogno dell'amministrazione, dei sindaci, del sindaco, che se sono vero, se sono fatte le campagne elettorali, se sono fatte, ma è ovviamente sono dei discorsi politici, si spende, ci siamo spesi, però ci siamo riusciti, noi ci possiamo dire, abbiamo messo la parola fine, verrà collaudata, consegnata, quindi su questo aspetto effettivamente si è realizzato qualcosa di molto importante. Ora viene la fase successiva, che è la fase un'altra, l'altra, per la fase prima è stata pure una fase pericolosa, perché quando le repubbliche si iniziano, non si terminano e rimangono nel vago. Qua sono stati bravissimi coloro che hanno iniziato questo progetto e l'hanno saputo portare a termine, bravissimi. Anche in un breve tempo, voglio dire, ragionevole. Adesso c'è un'altra fase, che è una fase molto delicata e altrettanto pericolosa, perché non si può sbagliare. Non si può sbagliare. Che noi, se sbagliamo in questo momento, e dico che in questa fase dobbiamo avere dei peccati, gli interlocutori giusti, e come parlava, come diceva alla fine il dottore Messina, la capacità di sottoscrivere un protocollo ben definito, una convenzione ben definita con i soggetti che andranno a gestire questo centro, e in primis salvaguardi le aziende locali, in primis salvaguardi le aziende locali, la produzione locale, il primo interlocutore devono essere le aziende agricole di produzione del territorio ebreo. I primi. Dopodiché, anzi, non ci deve essere. Capisco che è un discorso complesso. Yeah. ringrazio per la ringrazio per suggerisco per la brevità. Assolutamente sì. Io volevo dire alcune cose dopo aver ascoltato la relazione di Fabio Fancelli e la dotta relazione di Giuseppe Messina, che mi ha aperto gli occhi su alcune cose. Il Frigomacello. Il Frigomacello, non dimentichiamo, è stato costruito con fondi pubblici. Parte dello Stato e parte della provincia. Trovo strano. Chi vuole fare l'intrapresa Salvatore Gallo, mio amico e conoscente da una vita, poteva farsi un Frigomacello privato. C'è uno che vuole fare impresa per la macellazione degli animali. Ho i soldi e faccio un frigo privato, un Frigomacello privato, e lo gestisco da me. E quello è un'impresa privata. Hai ragione. Ma quando uno è fatto con i soldi pubblici, 4 milioni e mezzo di euro, cioè 9 miliardi di vecchie lire, qualche problema dobbiamo cominciare a porci. Cosa facciamo? Spendiamo i soldi dei cittadini? I soldi pubblici sono presi dalle tasse dei cittadini, non dimentichiamo questa cosa. Ogni cittadino paga le tasse e attraverso le tasse vengono fatte le opere pubbliche. Sciupiamo i soldi dei cittadini? Io ho qualche perplessità su questo, Salvatore. Perché dico questo? A fondamento dell'economia in palazzone della nostra zona, del territorio, è l'agricoltura. Tutto ciò che noi vediamo costruito, dalle chiese, palazzo, comune, cose eccetera, sono stati costruiti con i soldi dell'agricoltura. Come che hanno fatto i nascere. Ma l'economia della nostra zona e della Sicilia in genere è stata fondata sull'agricoltura. Perché siamo al solo nel territorio di Sicilia? Perché è caduta una delle fondamenta su cui si fondava l'economia nostra, che è l'agricoltura. Andando in crisi l'agricoltura, tutto in conseguenza è andato in crisi. L'artigianato, il commercio, tutto è andato in crisi. Cosa può rappresentare il Frigomacello in questo momento? Può rappresentare un volano di sviluppo che permetta alla fondamentale economia di palazzone del territorio di rinascere e dunque di trascinarsi dietro tutte le altre economie e tutte le altre attività. Io perché ci credo a questa cosa? Un amico mio, onorevole, in una delle date che mi hanno scusato all'altro Frigomacello, cosa c'era, mi fece una domanda: ma tu che sei maschio? Mi disse: chi ci trasi che hai con te? E io gli ho risposto: se non va avanti l'agricoltura, io non ho niente da fare. È chiaro che è. Ecco perché io credo nel Frigomacello. Ma credo nel Frigomacello se viene gestito e sviluppato in una certa maniera. E questo è stato detto da Giuseppe Messina in quella relazione. Comunque abbiamo avuto anche discussioni qui pubblicamente. Se questo non viene fatto al servizio degli allevatori, non avrà avuto nessun impatto nel tempo, non avrà nessun impatto nell'economia. Perché la stessa cosa, se un allevatore vende i piedi privatamente, poi venderebbe a chi gestisce il Frigomacello. Noi non abbiamo risolto il problema del valore aggiunto della nostra agricoltura. Quello è il meccanismo, e a questo dobbiamo puntare. Cioè l'economia è il guadagno. Il valore aggiunto di questo deve restare nel territorio, non deve essere un'impresa privata che ha risolto, perché questo lo poteva fare, ripeto, se l'avesse fatto lui il Frigomacello privatamente, spostando 4 milioni e mezzo di euro. Questo l'ho fatto la collettività e deve andare a beneficio della comunità. Il ruolo dell'amministrazione, signor Sindaco, io ho sentito le sue cose che ha detto sul giornale, in un'intervista, e queste sono condivisibili. Tutto deve andare a supporto di quell'importante settore dell'economia siciliana. Noi ci andiamo ad avere la carne buona, l'olio buono, l'aria buona, i formaggi, tutta questa serie, l'agroalimentare è diventato anche di moda al giorno d'oggi. Se non lo facciamo diventare tutti insieme, a base dell'economia nostra, non avremo ottenuto questo risultato. Il frigorifero è uno, è a fondamento. Io vorrei ricordare, visto che a Caracatini quando c'è stata, signor Sindaco, per la bella manifestazione certo che c'è stata, ho visto per la prima volta il vino nero, e ho visto anche i prodotti del signore che ho assaggiato. Giuseppe mi parlava un tempo fa, si è spiegato di voi, mi parlava di fare la salsiccia dopo, la salsiccia palazzone se dopo, con il vino nero come si faceva tanti anni fa, perché non c'era, non esisteva il vino di altro colore. E ovvio che soprattutto la salsiccia del suino nero costa di più, costerebbe di più in quanto massimo un magnate arriva a 110 kg, da chi trasera 250-300 per il costo sarebbe. Però è una delle cose, al giorno d'oggi non sempre produrre in quantità, sempre produrre in qualità. E io chiederei al Presidente della cooperativa dopo, e qui c'è ci sono che sono rappresentati, se vuole fare la salsiccia dopo, che sarebbe uno dei motivi di mangio al palazzone, che già ce l'ha, già il prende, come si dice, sulla salsiccia al palazzone, ce l'ha. Dove lo fa? Un volte cada me? O al comune? Nel frigomacello deve farlo. Ecco perché dobbiamo aiutare tutto questo attraverso il frigomacello. Se pensiamo, come è stato detto nella relazione che ha fatto Giuseppe Messina, che ha detto la signora, che importiamo il 75% di carne, cioè in Sicilia consumiamo il 75% di carne che viene da fuori, ma quale prospettiva si aprono allora per il frigomacero? Si tratta di farlo funzionare, si tratta di non fare un carrozzolo, questo sì è il rischio. Se facciamo per il frigomacero o una cosa che viene privata e si prendono tutti i guadagni, non ne facciamo un carrozzolo dal punto di vista mondiale, avremmo fallito e avremmo sciupato 9 miliardi di dimenticato tutto questo, ci accende sempre nella nostra zona. Pensate all'orificio del Buchetto. Io ero un ragazzo quando l'ho cominciato a costruire. Costò allora 10 miliardi di lire, allora 10 miliardi di lire. Ed è chiuso, sta cadendo, ogni tanto se ne rompe un pezzo. Poi è un omino. È diventato un omino. È diventato un omino. Cioè, a me non funziona. A me non funziona. Ora per questo non deve diventare né uno sciupire delle risorse pubbliche, né e deve diventare invece un motivo di aggregazione di allevatori, giusto diceva il patologico. Hanno, qui si coltiva ancora e si alleva tradizionalmente, dunque la qualità è di un certo tipo, non dimentichiamo però che questo è la società cooperativa e qualcun altro sono i residui di quegli allevatori che prima c'erano. Palazzone invece è un autonomo, non dimentichiamo che c'erano prima 1000 e 100 imprese, diciamo, magari c'era solo il dollaro, ma c'erano 1000 e 100, manco previsto a sta percentuale del lavoratore autonomo. Si basa l'economia di Palazzone e della zona sul lavoro autonomo, sono scomparsi, esattamente che cosa vogliamo fare scomparire perché sono rimasti? E su cosa si fonderà l'economia di Palazzone? Quando scomparirà quel poco che ancora resta in agricoltura, sul niente, sui menzionati. E dunque il paese è destinato a morire. Se non vogliamo fare un primo palazzolo, dobbiamo fare in modo dove c'è possibilità di sviluppo, e questa amplia possibilità di sviluppo, il primo macello, se no non avremo futuro. Un'ultima cosa però dire. C'è un gruppo di cittadini, se il frigomacello non avrà questo indirizzo, cioè quello di essere a favore dell'economia sana della zona, del territorio, noi ricorreremo in tutti i posti. stato progettato, ciò per cui è stato indirizzato, cioè per far sì che rinasca l'economia agricola della nostra zona. Grazie, scusa, non sono fatto. Assolutamente, credo di dover anche ringraziare come di tutte le persone. Scusa, no, consigliere Giacomo. Interventi anche da parte del pubblico così costruttivi che sia un motivo veramente di confronto con l'amministrazione. Non va dubbio che quelle che sono le idee, le attese di Gianni sono le idee e le attese dell'amministrazione, sono state un fallimento fortemente forte chiaramente per noi tutti. Prego, signor Pugliese, può venire. Sebastiano, penso che tu ci potresti illuminare di che cosa significa patto territoriale e presumo che tu ci possa illuminare pensando per un attimo quali sforzi hai fatto per cercare di riutilizzare quelle risorse che nel patto territoriale agricolo che sicuramente tu ci potresti illuminare perché il patto territoriale agricolo nasce intorno agli anni 2000, i patti territoriali per uno sviluppo diverso del territorio nascono negli anni 96, 97, 98 per definirsi poi con l'ultimo approccio della determinazione dei decreti dell'agricoltura negli anni 2000. Da quel preciso momento a oggi sono 15 anni, ci potresti illuminare e dire il percorso che questo territorio ha fatto e questo comune, uno dei tanti comuni che ha sottoscritto il protocollo di quello che è il patto territoriale agricolo, si è intestato insieme a te e insieme a tanti altri. Parto da questa considerazione perché quando tu hai messo in piedi l'idea del riutilizzo di quelle risorse che il territorio non aveva utilizzato, hai pensato che lo strumento di sviluppo potesse essere il frigorifero. Perfetto, anch'io sono di questo avviso. È chiaro che sono passati sicuramente quasi 15 anni da quel momento e poi in una fase successiva è stato riconosciuto valido l'idea che il GAL proponeva del riutilizzo delle risorse con il frigorifero, con delle lettere di intento messi in campo nell'anno 2008. Negli anni 2008 avevamo un'amministrazione pubblica provinciale di un certo indirizzo, avevamo al comune un altro indirizzo e così insieme abbiamo messo l'idea di fare il frigorifero. Quando è stato dato l'impegno a trovare il suolo in cui far nascere il frigomacello, qui incominciano i miei problemi, i miei disagi, le mie difficoltà. Se faccio impresa non cerco un terreno in cui sono convinto che dovrò fare una serie di varianti per non dire che potrei anche infossarmi nell'argilla e non uscire più. Cerco un terreno dove è possibile pensare di spendere quello che ho un programma di spendere e fare un frigomacello. Ma qui la politica ha fatto la sua parte da leone, perché su contrada poi c'è il frigorifero, c'è una strada provinciale caduta, anzi due collegamento con Gerdatana non esistono più e poi c'è il frigorifero, speriamo che non cada il frigorifero, però attorno al frigorifero c'era bisogno di fare una serie infinita di varianti. Oggi la politica non riesco più a capire dove è la politica, perché tutte le volte che accendo la televisione, mala politica, ruberia da tutte le parti. io mi auguro che qui non si arriva alla stessa cosa. Io mi auguro che qui il Fricomicello serva al territorio. Io mi auguro che il Gallo, che il suo presidente, che chi collabora con le amministrazioni pubbliche, no? Si prendono l'impegno di aggregare tutto quello che è possibile aggregare per darsi un futuro. Perché senza il Fricomicello, senza la nostra produzione agricola, noi da qui a un paio d'anni non ci saremo più. E questo è il compito che necessariamente ve lo siete dati voi, perché volete amministrare la parte pubblica. È chiaro che un Fricomicello che non ha un gruppo elettrologico, anche se dovesse essere un gruppo elettrologico di continuità, allora si incomincia ad avere qualche perplessità, perché se viene a mancare l'energia elettrica, come farà la carne? Ha solo la carne? E se dovesse esserci un incendio e il gruppo elettrologico dovrebbe servire per fare un intervento di pronto soccorso? E non si fa. Perché? Perché i soldi sono serviti ad altri. E mi fermo qui. E mi fermo qui, non vado oltre. Perché se ci sia necessariamente bisogno di dire che il Fricomicello dovrà determinare ricchezza al territorio, io sono tra quelli che necessariamente vuole determinare ricchezza al territorio. Crediamoci tutti, diamoci un senso a quello che abbiamo costruito, diamoci un impegno ad essere presenti quando saranno consegnati per ora. Perché sarebbe stato più giusto, come dice il buon Giuseppe, che per 24 mesi qualcuno l'avrebbe gestito per capire se c'erano delle carenze. E invece no. Se ci saranno delle carenze saranno a carico di quella disgraziata società che hanno detto sì. E i tecnici dell'impresa? E poi lì faremo la causa. Ma scusa, 4 miliardi, 9 miliardi, senza gruppo elettrogeno, senza un cancello che si apre in automatico, senza una sedia, senza una contelleria. Ma dove sono andati a finire? Ragazzi, il terreno è costato 21.000 euro, l'analisi la deve fare tutto. Se non vogliamo che qui intervenga necessariamente qualcuno solo di noi, ci dobbiamo aggregare e dare futuro alle imprese. E io non ho una soluzione diversa. Io ci voglio stare in questa scommessa, perché anch'io potrei utilizzare il Fricomicello, perché è l'unico Fricomicello in zona, grazie Sebastiano, che ha 3 lettere, L, S. Non è un Fricomicello, ha la possibilità di lavorare la carne, ha la possibilità di sezionare la carne, ma ha anche la capacità, e questo lo dico a voi che siete imprese a volo, ha anche la possibilità di essere piattaforma logistica per questo territorio. Utilizziamo tutte le risorse, utilizziamo tutti i consensi, non mi fate descendere in condizione o in parlare che sicuramente poi mi dispiacerebbe fare, però aggreghiamoci, perché non ne vedo una soluzione per nessuno. In modo particolare io lo faccio per i miei nipoti, non lo faccio per altri, perché sono giovani, sono bambini, hanno bisogno che questa politica li accompagni a un futuro più certo, perché io futuro ho difficoltà a vederlo. Grazie. La ringrazio, signor Fugliari. Giuseppe, passo la parola al sindaco di Caricantini. Intanto buonasera e grazie per l'invito del sindaco Scimbetta, al presidente del consiglio, che grazie, buonasera ai consiglieri comunali. Inizierei dalle ultime osservazioni, dalle considerazioni che ha fatto il signor Burrero sulla questione, su una frase importante che ha chiuso il suo ragionamento: aggreghiamoci, mettiamoci insieme. Io aggiungerei un'altra questione: usciamo dai localismi. Intanto diciamo in maniera forte, il Fricomicello non è il Fricomicello di Palazzo Latrini, il Fricomicello è il Fricomicello di un territorio che sta provando a fare una scommessa. Poi chiariamo la questione: il Fricomicello fu pensato e costruito 8 anni fa, 9 anni fa, quando l'idea c'era, e ed era un'altra idea dell'utilizzo del fumocello. E io porto sempre l'esempio nel dire: è come se qualcuno dentro un'abitazione abbassa la tapparella e sta 20 anni dentro quella casa, poi alza la tapparella e si accorge che fuori il mondo è cambiato. È la stessa storia del fumocello. Nel momento in cui finiamo il fumocello, partiti da tanto lontano, ci accorgiamo che il mondo è cambiato e che quel fumocello con quell'idea non ha più senso. Anzi, addirittura, il fumocello a cui stiamo attribuendo una responsabilità enorme rispetto ai modelli di sviluppo, io credo che abbia la responsabilità di rappresentare un anello nel nuovo modello di sviluppo che questi territori si vogliono dare. Io da rappresentante ANCI, che ho avuto la possibilità rispetto ad altri nel girare tutta la Sicilia, i consigli comunali, ci posso garantire che oggi siamo entrati in uno stato di confusione generale rispetto a quello che è il futuro dei territori, rispetto a quello che sono i modelli di sviluppo che possono sostenere il futuro delle nuove generazioni siciliane. Abbiamo dimenticato un intervento che mi ha preceduto, ha detto qualcuno, dico, le chiese, i palazzi, le strade sono state tutte costruite da un reddito proveniente dall'agricoltura. Caduta l'agricoltura si ferma lo sviluppo, ha dimenticato un passaggio che fra la caduta dell'agricoltura e l'assistenzialismo spietato che c'è stato nel sud, nel meridione, che ha chiuso e bloccato tutti i sistemi produttivi di produzione della ricchezza reale in Sicilia, ha determinato lo stato attuale, la fine dell'assistenzialismo con il crollo verticale dei sistemi pubblici, comuni, ospedali, province, tutta una serie di confusione generale dell'architettura istituzionale, ha determinato praticamente il collasso complessivo unito alla produzione alla mancata produzione del reddito della ricchezza reale in Sicilia, ha determinato uno stato di fermo da cui bisogna ripartire. Ma si riparte, secondo me, facendo un'analisi partendo dalla cornice per andare nel particolare, si riparte considerando i nostri competitor non più i comuni vicini o le regioni vicine. I nostri competitor ormai siamo entrati a pieno titolo, grazie all'informatica, alla tecnologia, all'innovazione, è il mondo, è il globo, è la città di re, per cui oggi abbiamo una Sicilia che non ha ruolo, che non ha funzione, che non ha competenze, che non riesce a entrare in un mercato di produzione di ricchezza rispetto al quale ci sono identificativi e identità nella storia che parlano di grande potenzialità di risorse archeologiche, turistiche, balneari, di sistemi dell'agricoltura che il mondo ci invidia. Non è così, che abbiamo potenzialità ma non siamo riusciti mai a far diventare queste potenzialità. Il sistema è unico prodotto identitario perché il mondo ci chiede. E io partirei da lontano. Cosa si aspetta un cinese, cosa si aspetta un indiano, cosa si aspetta un americano rispetto alla Sicilia, come si sta organizzando la Sicilia? E vi posso dire che stamattina a Catania abbiamo lanciato quel grande progetto dell'Export Sud sull'incoming che faremo con 250 aziende dell'agroalimentare per la prima volta, 250 aziende dell'agroalimentare siciliane aderiscono all'iniziativa per incontrare 24 buyer provenienti da 11 nazioni europee, ma anche da due nazioni come il Giappone e l'America, dove l'agroalimentare italiano è già una realtà da questo punto di vista, ti fa riflettere su questa questione. E tu ti poni la domanda e dici: ma voi vedete che il mercato è ormai veramente confermato, è il mondo che ci guarda e che ci osserva, su cui noi dobbiamo provare a lavorare sulle identità e sulla qualità per far esplodere quella che è la potenzialità del nostro territorio? E se il mondo ci chiede, ci riconosce il patrimonio dell'umanità, la dieta mediterranea, come non solo come bontà del cibo, ma anche come identità e come stile di vita, come qualità di vita, io non credo che la moglie di Michelle Obama viene invita Carlo Petrini a raccontare davanti ai vertici della sanità americana cosa significa dieta mediterranea nella lotta all'obesità, ma anche all'abbattimento dei costi sanitari rispetto alla produzione che noi siamo nel cuore della dieta mediterranea. Allora da lì torni indietro e tu capisci che c'è qualcosa che non sta funzionando sul nostro ragionamento, nei consigli comunali che si accavallano, che si sovrappongono, nelle discussioni che poi non portano e non escono da nessuna parte. E io mi pongo il problema e dico: ok, va bene, l'agroalimentare abbiamo la potenzialità del nostro prodotto perché c'è la specificità che voglio e devo legare alle potenzialità del benessere, della qualità della vita siciliana, che devo collegare al turismo, che devo collegare a tutte le potenzialità del nostro territorio, facendo facevo una considerazione nell'ultimo intervento attorno a una rete ferroviaria che tocca Comiso, il Ragusano e scende, ci sono 11 riconoscimenti patrimonio dell'umanità, una cosa impressionante. A Roma facevo una riunione con dei vertici di Federculture e mi diceva cose inaudite, inammissibili, cioè qua quasi quasi ogni cittadino c'è un riconoscimento del patrimonio dell'umanità e noi non riusciamo, stiamo discutendo su qualcosa che non funziona. E se dico che tutto questo è potenzialità e se l'agroalimentare è potenzialità, quello che avete detto un momento fa, secondo me, è importante, cioè il territorio si deve organizzare. E la battaglia la facciamo lì perché il primo macello diventa un anello perché si possa proporre al mondo, ma si possa proporre come strumento per iniziare a migliorare i consumi interni. Allora io dico, funziona il frigo macello per attivare la fase produttiva della carne tipica nostra, perché se prima c'era il Made in Italy che bastava leggere Made in Italy, Made in Sicily, ma poi si parlava solo di trasformazione perché il grano era russo, però la pasta era Barilla e io me la mangio in America perché si chiama Barilla del Made in Italy. Oggi non è così, il cittadino nuovo, moderno, che ha studiato, il nuovo consumatore non guarda solo il Made in Italy, pensa se la materia prima è stata prodotta in quel territorio, perché di quello vuole fare, di quello vuole trattare, perché ormai non è tempo di un cittadino che non guarda, che non legge. Quindi su questo ecco che inizia a prendere corpo quella che è la nostra strategia, complicata, difficile, non siamo pronti, non siamo professionalmente all'altezza di capire come si fa ad uscire da questa vicenda. Però io credo che se si inizia un percorso e si dice la materia prima io la produco identificando nel territorio e io la lavoro attraverso i disciplinari che noi tutti condividiamo e che abbiamo finalmente lo strumento pubblico che ci possa macellare in un certo tipo rispettando i disciplinari, che posso fare la lavorazione della carne in un certo tipo e quindi al mondo posso proporre qualità e identità di questo territorio che sa produrre carne, ma perché è la carne in questo senso, ma che può essere l'agricoltura e la trasformazione, l'industria della trasformazione, e quindi creando i percorsi che già sappiamo, cioè qua ci sono dei cibi di una qualità impressionante. Quando noi abbiamo fatto a Canicattini, si ricordava quei tre giorni della manifestazione, chi ha fatto degustare i prodotti trasformati delle carni sono quattro giorni a Palazzolo, cioè che hanno fatto in modo che il territorio facesse una gran bella figura rispetto alla qualità del cibo. E allora le sovrapposizioni, le questioni, bisogna mettere da parte. Noi l'energia la dobbiamo spendere, visto che adesso abbiamo il frigo macello realizzato con soldi pubblici, come faceva notare qualcuno, noi la battaglia la dobbiamo indirizzare verso quell'aspetto giuridico che ci consenta di lasciare la gestione in mano pubblica rispetto però a meccanismi che, anche se oggi ti negano la possibilità di poter gestire in maniera diretta, salvaguardando gli allevatori del territorio, i produttori del territorio, chi prova a lavorare sull'alimentazione del territorio, e qui mi rivolgo anche ai longevifici, perché lì è il protocollo, la grande scommessa che bisogna fare, unire, non distregare, unire. Se io devo arrivare ad un certo punto a fare un'operazione finale, che è quello di mettere sul mercato una tipologia di carne X, io mi pongo il problema con quale strumento giuridico metto tutto dentro rispetto a questa operazione e faccio per questa cosa. La sfida è questa e mi pongo il problema che si pone Scibetta rispetto al quale, ma mi pongo io come sindaco di Canicattini, dico, ma me la posso assumere la responsabilità della gestione di un macello? No, perché vado a perdere. Ma me la posso prendere io la gestione di un'altra struttura pubblica? Non ce la faccio, perché dietro mi guardo la situazione, tagli dello Stato, fiscalità locale, tagli della regione, non riusciamo a mantenere questa operazione. Allora la sfida qual è? La sfida è quella di aggregare, la sfida è quella di aprire subito, non c'è più spazio perché il mondo non ti aspetta, le tapparelle vanno alzate, va verificato in altri territori cosa sta accadendo rispetto alla produzione di carne fatta di una certa qualità. Oggi è finita la questione della concorrenza con quelli che si alzano la mattina e poi vediamo come viene il prodotto. Oggi la concorrenza è agguerrita, quindi bisogna trovare strumenti giuridici all'altezza della situazione, e molte volte l'ho detto anche in una riunione, bisogna che si punti subito a trovare consulenti all'altezza della situazione, che già in altri territori meccanismi di questo tipo li hanno valutati, li hanno gestiti. Non bisogna aver paura e non vergognarsi rispetto al fatto di dire in maniera umile non siamo all'altezza, non siamo preparati. Bisogna capire perfettamente i limiti nostri in questa operazione situazione, copiare perfettamente i sistemi avanzati che sono nel mondo, no? Nella provincia di Ragusa o nella provincia di Messina, processi avanzati che sono nel mondo e creare le condizioni per cui questi territori alla fine, che poi hanno potenzialità rispetto ad altri in maniera incredibile. Io mi ricordo all'Ancia Nazionale, mi avvicinai in un banchetto e lì ti fa riflettere su quanta noi, la pochezza della nostra situazione in questa fase. Mi avvicinai in un banchetto, c'era un architetto che faceva marketing territoriale. Io vidi delle palline di zucchero messe sul tavolo e l'architetto mi disse: Presidente, ci li assaggi, queste sono collegate alla regina Longobarda a Monza, perché noi facciamo gli anelli, poi facciamo gli studi nelle scuole, poi facciamo, e quindi vendiamo il territorio di Monza. Cioè, si erano inventate delle palline di zucchero, una collana, stavamo vendendo il territorio. Quando ha saputo che io ero degli imperi, cioè di questo territorio, è stato spontaneo nel dire: dico, ma voi avete mille opportunità per potervi vendere il territorio. Allora, collegare il cibo al territorio era la scommessa, però per fare questo bisogna avere la capacità di aggregare, bisogna avere la capacità di portare attorno al tavolo chi produce mangimi, chi fa l'allevamento e si lega a un disciplinare, chi all'interno del quale si possa gestire questo primo macello per produrre la carne di un certo tipo, perché sul mercato ci si vada con l'identità e la specificità di poter dire ai cinesi: se vieni nel nostro territorio mangerai il merce che si produce qua, come materia prima, come produzione, come carne. La differenza che si aspetta il mondo è questa, perché noi, se vogliamo fare il McDonald's, io vado a Siracusa e mangio il panino, gli chiudo gli occhi, oppure lo porto al Milton, gli chiudo gli occhi, però non capisce se a Roma, se a Palazzolo, l'importante è che è al Milton, che sono tutti uguali, i McDonald's sono tutti uguali. Allora la differenza, la sfida la facciamo lì. E la paura di dire: ma c'è il business plan per poterci stare? Lì bisogna costruire la questione etica. Se c'è chi produce il cibo, chi produce il mangime, chi fa l'allevatore, chi fa la macellazione, chi fa la trasformazione, chi fa la lavorazione, chi va sul mercato, è lì che tu devi tenere fuori le regole. Per certamente, se continuiamo con l'ignoranza assoluta di chi produce e prende 2 e chi va sul mercato prende 35, è chiaro che lo spaccato poi per gestire un primo macello non ci sarà mai. Allora la capacità politica è di capire: alza le tapparelle, guarda cosa sta accadendo fuori. Non è più pensabile che c'è il commerciante furbo e il produttore stupido, c'è bisogno che il territorio si rivesta nuovamente di un abito nuovo, totalmente diverso rispetto al passato, e purtroppo dobbiamo rendere coscienza e consapevolezza di questa storia. Non c'è altra storia, perché questo ti chiede il mondo: l'identità, il cibo, la materia prima sul tuo corpo, e lo devi fare. Lo sforzo della politica è di tipo culturale, cioè noi cambiamo, riusciamo a disegnare un futuro per i nostri figli solo se cambiamo culturalmente l'approccio al problema. Io l'altro ieri parlavo nel progetto Scalato, il progetto del famoso pastazzo, che diventa un grande problema per chi produce agrumi o per chi fa succhi, perché deve buttarlo in una discarica e quindi ha un posto. E se inneschi un meccanismo di laboratorio che fa la trasformazione, può diventare alimentazione animale, e diventa quindi una risorsa e si trasforma. E se tu il produttore di mangime lo infili in un meccanismo di questo tipo e lo leghi a dei disciplinari produttivi, arriva al punto che, come lo può fare nella carne, lo può fare con l'ortofrutta, lo può fare con tutto quello che poi si lega alla grande bellezza del nostro territorio, che è il mare, che è l'archeologia, che è il paesaggio, che sono le riserve. Perché altrimenti, se noi ancora continuiamo a litigare fra di noi, a chi ha torto, a chi ha ragione, a chi trova la soluzione, a chi trova la via, non la troverà nessuna soluzione. Lo dico con molta franchezza: io non ho visto posti nel mondo dove hanno trovato la soluzione se non si aggrega. Allora, lo sforzo che dobbiamo fare, e ve lo dico con molta franchezza, vi trasferisco il mio sentimento, poi ognuno giustamente fa le sue considerazioni, ma il mio sentimento, dall'esperienza che mi sto facendo, è quello di dire: o ci si aggrega e le comunità si mettono insieme per trovare la soluzione, ma non una soluzione facilissima che lo facciamo in maniera hobbistica, diciamo la nostra nei consigli comunali, diciamo la nostra dove ci troviamo, studiando, analizzando i territori, vedendo perfettamente dov'è il mondo, cosa sta facendo, e la sfida lì è alta, la sfida, lo capisco che è alta. Allora accontentiamoci di rimanere periferia del mondo, cioè due sono: o lavori, studi e trovi la soluzione avanzata rispetto a quelle che sono i temi del mondo, o altrimenti ti accontenti di fare le marginate del mondo, quindi quello che sta aspettando è qualcuno che civilizza il mondo. Allora, su questi temi io vi chiedo che la politica siciliana, che è scomparsa, nazionale, che ha tolto dalla propria agenda il sud, il problema del sud, perché vi posso garantire, da vari incontri che faccio a livello nazionale, che il Sud e soprattutto noi non esistiamo più nell'agenda e nei programmi del governo nazionale. Siamo un problema risolto, cioè il meridione d'Italia prima era la questione meridionale da 150 anni, ora è uscita dalla scena perché il governo è in questo momento indaffarato a ragionare con l'Europa e il ruolo dell'Italia del centro-nord rispetto alle tematiche che riportano il 65% di disoccupazione giovanile e il 30% di disoccupazione generale, ovviamente sotto gli indicatori della Grecia, ma non ce ne accorgiamo delle disuguaglianze che stiamo creando, di chi ha un posto di lavoro e lo può difendere, ma di chi non può accedere al cibo. Quindi queste cose in maniera disattenta le stiamo superando. Allora, siccome c'è una classe politica che ha il piacere di governare, sono i consigli comunali, il sindaco, l'assessore, il professionista che si può mettere a disposizione, anziché chiacchierarci addosso, facciamo le riunioni fiume, quelle dove usciamo e ognuno porta le proprie esperienze e le conoscenze e le competenze che si fa professionalmente, ma scoprendo anche altri territori. Mettiamole subito a disposizione, noi siamo tutti pronti a rischiare, perché ci stiamo giocando il futuro veramente, ma non è un problema di fare un comizio politico. Qui ci si sta giocando il futuro dei figli, il futuro di questo territorio che non riparte più, perché vi ricordo, se qualcuno lo avesse dimenticato, che chiusa la parentesi triste dell'assistenzialismo del meridione, non verrà nessuno qui a inventare un modello di sviluppo se noi non decidiamo di chiudere la parentesi vecchia delle contrapposizioni e di partire verso la stessa, verso una direzione che ci porta a diventare attrattori importanti rispetto a quelli che oggi stanno pensando là. Io mi immagino in Cina uno che vive a Pechino, 25 milioni di abitanti, il sesto anello autostradale largo con del Belgio, stanno costruendo sotto i ponti, non hanno vincolo ambientale, non hanno nulla, stanno distruggendo. Io immagino uno che per un mese venga a vivere qua facendo trovare un territorio preservato, la storia, la cultura, il cibo, la dieta mediterranea. Allora, se questa è la sfida, non si può ottenere contrapponendoci l'uno all'altro. Questo è il tema culturale su cui dobbiamo lavorare. E avere il coraggio di dire: io non ce la faccio, ma nomino un consulente, un esperto, e io mi metto in un gruppo di lavoro dove inizio a fare questo ragionamento, sapendo però per certo qual è la mia visione, qual è il mio obiettivo. Perché se, come sta accadendo in Sicilia, non c'è una visione, non c'è una strategia. Si spendono i fondi comunitari senza sapere dove si spendono, perché poi alla fine si dice: ma non hanno speso i soldi. Ma è chiaro che non hanno speso i soldi, perché non c'è una visione, perché non c'è un modello, perché non sai dove andare. È come uno che guida, sale su un aereo, non c'è un pilota, vado a mezza strada, scusate, siete col pilota automatico. Allora, se tutti aspettiamo che qualcun altro trovi la soluzione, è sbagliato. Io credo invece che se si riesce a fare questo salto importante, e nel caso specifico, partendo dalla richiesta che avevamo fatto, la lettera fatta alla provincia, per capire, quantomeno avere la forza di togliere di mezzo una struttura che non ha ancora capito dove deve andare, cosa fare, non ha ancora la normativa. Se il territorio come il nostro si prende in mano questa struttura e insieme a tutto quello che nasce, che io vedo in maniera positiva, la cooperativa Polo, che è stata la cooperativa che ha organizzato le degustazioni della trasformazione delle carni nella manifestazione e quindi ha fatto un grande successo e che può essere amplificato e implementato in maniera enorme, se tutti ci mettiamo attorno a un tavolo e troviamo la soluzione insieme a consulenti importanti, sia dal punto di vista giuridico ma anche dal punto di vista gestionale, con una visione ben chiara, con un tavolo di lavoro, un gruppo di lavoro, professionisti che sanno cosa stanno facendo e qual è il loro obiettivo, io credo che questa è la soluzione, perché altrimenti, ve lo dico col cuore e dall'esperienza che ormai uno si fa facendo l'amministratore pubblico, tutto il resto è chiacchiera, tutto il resto non porta nulla, tutto il resto ti può dare una soddisfazione di dire: io ho fatto fare molta figura a quello, io all'altro, l'altro a quello, l'altro al partito, e poi vediamo come va a finire. Allora, su questa questione abbiamo la responsabilità di aver speso soldi pubblici in maniera incredibilmente lenti, 8 anni per costruire più, ma ora ce l'abbiamo. Abbiamo ancora oggi la fortuna di intercettarlo e utilizzare in maniera diversa per come fa. Allora io credo che la proposta sia quella che da domani mattina si costituisca un gruppo di lavoro per chi vuole partecipare e l'interesse subito ad andare a cercare neanche in altri territori qualcuno che ci possa guidare verso la realizzazione di questo nostro obiettivo, perché altrimenti il frigo macello farà la stessa fine che hanno fatto altre opere, cioè messi lì, magari si fa un mando di gara, viene il privato, viene a gestirlo, non appena dopo 6 mesi, 8 mesi, il sistema produttivo delle carni non riesce ad alimentare il funzionamento del frigo macello, è chiaro che si chiude e quella è la morte finale dei soldi pubblici, ma della speranza non che funzioni il frigo macello, che è giusto che funzioni, ma avrei la speranza che si riattivino i meccanismi della materia prima, quindi della produzione di grani di un certo tipo, che ti porta ad integrare nel territorio, a far sì che l'archeologia del nostro territorio, il turismo, la balneazione, utilizzando l'attrazione che è la bontà del cibo, diventi prodotto da offrire al mondo. Allora questo meccanismo è un meccanismo complesso, complicato, difficile, ma non irrealizzabile. È realizzabile se stiamo in silenzio, in equilibrio, che lavoriamo tutti i giorni e troviamo le soluzioni per arrivare a questa operazione. Altre soluzioni io personalmente, portando un contributo in questo consesso, non ne ho. Io ho tirato fuori questo mio sentimento e questa mia esperienza consegnandola, perché vi posso garantire che non c'è una parte della Sicilia, non c'è una parte della Sicilia dove ci sia uno che sappia qual è il futuro di quel territorio. Per cui stiamo partendo dal nostro territorio, proviamo a legare tutti i territori siciliani, la Sicilia è una. Non mi fate parlare dell'Expo, non mi fate parlare rispetto a quello che è accaduto nella rappresentazione al mondo, 146 nazioni che si chiedono e si stanno provando a confrontare sulla produzione di cibo. Te lo dice lì che cosa significa produzione di cibo e qual è la sfida che il mondo si attende rispetto ai territori che producono cibo, e ancora noi non possiamo perdere del tempo a capire cosa fare del cibo. Per cui io vi ringrazio per l'invito e spero di aver contribuito alla causa. Grazie Paolo. C'è qualcuno nel pubblico che vuole ancora intervenire? Sebastiano? Per il rispetto del consesso, da quanto è stato detto, credo che sia estremamente esaustivo. Avete percorso un po' l'iter di questa struttura e credo che in un certo senso abbiamo realizzato un iter abbastanza partecipato. La variante fondamentale di cui si parlava prima, che era quella del 2013, ha capovolto completamente l'impostazione originale, totalmente, e questo è avvenuto grazie alla partecipazione attiva dei soggetti locali che insieme alle pubbliche istituzioni hanno individuato la strategia piano piano e poi hanno fatto formalizzare atti. Quindi un percorso più partecipato di questo io credo che non esista. C'erano atti che obbligavano a fare l'appalto con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Invece abbiamo detto che bisogna darlo al territorio obbligatoriamente e voi sapete i termini. Allora, io non voglio aggiungere molte cose, perché ripeto, oramai le istituzioni, la parte politica e parte lavorativa che siamo noi, in questo territorio c'è un livello di integrazione, di maturità che nessun altro ha. Per cui io ritengo che in questo momento le cose che abbiamo detto, che avete detto tutti qui, vanno messe a valore, vanno messe a frutto. Io vi posso assicurare nella maniera più totale che quanto c'è scritto nella relazione di Messina è esattamente quanto è stato discusso all'interno del CAPLA nel momento in cui è stata presa la decisione di chiedere la cessione del 52% da parte della provincia all'Unione dei Comuni. L'abbiamo chiesto al CAPLA e poi c'è stata una riflessione di chi rappresentava la provincia e ha detto passiamola ai comuni perché a un ente pubblico viene molto più facile. Benissimo. Un altro passo avanti che poi dopo queste cose siano fermate momentaneamente perché cambia il commissario, perché bisogna ricominciare il ragionamento, ma questo è un difetto del nostro sistema regionale che veramente non ne possiamo più. Ma noi ci stiamo dibattendo in queste difficoltà, e noi in questo momento, un'ultima cosa, stiamo prendendo in carico un frigo macerio che è aggiornato con le norme di oggi, nonostante sia stata quelle tapparelle chiuse per 10 anni, in un qualche modo, per dritto o per rovescio, abbiamo modificato le condizioni superate di prima e abbiamo un frigo macerio. No, allora arriviamo alla conclusione finale. Paolo vi ha detto: lavoriamo insieme, benvengano queste discussioni, ma benvenga ancora di più una partecipazione attiva anche nella fase di collaudo. Ora non aspettiamo che l'ingegnere con la ditta collaudi, l'ingegnere collaudatore. Andiamo noi con una delegazione nostra del territorio a fare un periodo di prove in cui, se c'è qualche cosa che non va bene, la vediamo in fase di collaudo. Ci sperimentiamo, perché il problema nostro del frigo macello, e questo non è stato detto prima, è molto complicato. Noi dobbiamo garantire, appunto per quelle molteplici funzioni che il frigo macello consente, che il singolo soggetto possa avere la possibilità di scelta, di chiedere di macellare un capo, e questo può essere un macellaio che va lì e vuole macellare un capo. Chiunque sia il soggetto che va a gestire il frigo macello, noi dobbiamo garantire al territorio che anche il singolo macellario o il singolo allevatore che lo vuole macellare e poi vendere nel proprio punto del comune di vendita personale deve poterlo fare. Però ci può essere questo stesso soggetto che, invece di utilizzare il servizio di macellazione, voglia utilizzare il servizio di macellazione più la frullatura. Dobbiamo consentirlo, ci deve essere questa elasticità. E se quello poi dopo vuole partecipare anche alla fase di lavorazione della carne, anche questo suo diritto va soddisfatto. Allora, siccome è una struttura pubblica al servizio del territorio, noi dobbiamo trovare un modello di gestione che possa soddisfare tutte queste variabili. E per questo avevamo pensato, quando abbiamo avanzato alla provincia regionale l'istanza di cessione, di fare appunto un primo periodo di gestione pubblica di concerto con un comitato gratuito di soggetti operatori del territorio, in cui ci sono soggetti specialistici, vuoi veterinari, vuoi di qualunque tipo, ma allevatori, vuoi chi lavora la carne, per testare quali sono le spese minimali che dobbiamo mettere a carico del territorio. Questo sarà di fondamentale importanza per fare poi il passaggio pubblico, perché nel momento in cui tu vai a fare un passaggio pubblico e hai contezza precisa degli oneri al minimo, quando tu metti quegli oneri al minimo, chi volesse utilizzare una struttura a fini speculativi non si ci troverà, e quindi avremo risolto il problema della speculazione. Allora, un'ultima cosa: siete stati invitati a partecipare attivamente a questo momento. Sappiate che siete fortunati, non esiste in Sicilia un livello di coesione come questo. A prescindere dalle incomprensioni, a prescindere dalle difficoltà, a prescindere dalle lungaggini, però state pur certi che le istituzioni, come guardano a questo territorio per il loro futuro, e questo ve lo posso assicurare io, che sono testimone quotidiano di quello che gli altri all'esterno pensano di questo territorio, io vi posso assicurare che le opportunità che avete voi non ce le ha nessuno, ed è un momento in cui possiamo raccogliere i frutti di 20 anni di accumulazione. Ma se mancate voi non si farà nulla, perché veramente poi resta semplicemente un'idea non concretizzata. Buonasera a tutti, come mio costume in queste circostanze non mi piace ascoltare, perché non sono di quegli amministratori che parlano e non ascoltano, anzi sono di quegli amministratori, ritengo, e penso di non sbagliare, che ha orecchie per ascoltare e in qualche modo anche la testa per poter anche elaborare quello che ascolta. Io mi scuso fin dall'inizio se alcuna risposta le do, perché ne ritengo che fanno parte, visto che purtroppo in alcune relazioni ho individuato sempre al solito quella provocazione alla risposta, ma saranno delle risposte immediate. Se caccia le streghe si deve continuare a fare, si può continuare a fare. Però vi assicuro, non perdiamo tempo su queste cose, se altri lo vogliono fare, lo possono continuare a fare. Qui nessuno ha nascosto carte, qui nessuno si è portato carte a casa, qui nessuno le ha messe sotto il tavolo, anzi vi invito a cercarle bene. E non dico nient'altro più, già la volta scorsa l'avevo detto, non volevo ritornare su questa cosa. Ma se caccia le streghe volete continuare a fare, siete liberi di farlo. Nessuno vi ha mai ostacolato. E vi assicuro che se ci fosse stato un conflitto di interesse, l'avrei risolto ab origine. Ab origine. Ancora oggi aspetto di capire qual è il conflitto di interesse. Ma non voglio neanche tornare su questa cosa. Mi dispiace quando poi sento nel lungo silenzio sul frigo macello. Vi assicuro che appena qualche mese fa, sempre in questo consiglio e in quella piazza del popolo, qualcuno mi accusava che parlavo sempre del frigo macello. E non solo qualcuno che è qui all'interno, anche di gente che era all'esterno, un sindaco si è dovuto uscire con il frigo macello. Queste cose sono state dette e ridette fuori, non ne ho voluto più parlare, perché sembrava una sorta di cavallo impazzito, che pare che ne parlavo solo io, o forse avevo preso la malattia della mucca pazza sul frigo macello. Oggi mi state portando al ragionamento e io rispondo al ragionamento, e rispondo in maniera estremamente semplice, perché non ne ho cose da conservare o da nascondere. O per meglio dire, non ne abbiamo, perché in queste circostanze parlare in prima persona, parlare diciamo da persona singola, è sbagliato, perché qui non stiamo parlando di una struttura di Palazzo Greco. Fin dall'origine, nel lontano 98-99, quando discutavamo a Cani Gattini, si parlava di struttura del territorio, ma con convinzione. Perché se non ci fosse stata quella convenzione allora, non avremmo destinato noi come patto, e chiaramente tutti coloro che partecipavano al patto, quella cifra alla struttura. E penso che la stessa provincia non sarebbe stata così pazza da mettere una cifra altrettanto rilevante. Cioè, già allora e ancora oggi, ed è questa anche l'attualità, nonostante diciamo questo lasso di tempo di 17 anni, la struttura, allora si pensava per il territorio e oggi si conferma per il territorio. E quando parliamo di territorio siamo perfettamente consapevoli che non è una struttura per questo territorio, per Palazzolo, per Tempiattini, per Cuscemi. Guardiamo un territorio più ampio. L'abbiamo sempre fatto, e questo lo dobbiamo dire. Dobbiamo allargarci, dobbiamo fare cadere questo muro con Ragusa, con Catania, che già nell'ambito della discussione l'abbiamo fatto cadere, però di fatto dobbiamo trovare il modo per coinvolgere il territorio. Ed è questa la vera scommessa sulla quale effettivamente penso che abbiamo la convinzione, ma che non riusciamo ancora ad innescare questo processo enzimatico che possa coinvolgere il territorio in tutte le sue forme e al di là di quelli che sono i confini amministrativi. Io non per spirito di polemica, ma solo per fare alcune precisazioni sulla lettera della cooperativa Povo, devo un pochino fare delle osservazioni, ma non perché ne voglia ne polemizzare, ma perché è importante nel ragionamento e in quello che poi gli obiettivi, i percorsi che ci dobbiamo fare. Una considerazione di carattere personale e vi chiedo, diciamo così, di ascoltarla e magari di conservarla sul voto. Qui non è la provincia che ha deciso di fare l'impianto. Non lo voglio dire perché ci dobbiamo appendere metà. La provincia condivise l'idea e nella condivisione fece l'importante scelta di mettere quella somma che mancava. Perché se fosse arrivato dalla provincia non si dà la sensazione e l'idea che questo era un processo che partiva dal basso, che invece è stato così, perché vi assicuro che quando parlavamo di frigo macello, già fin dall'inizio, non è stata una cosa da campare in aria. E qui c'è l'altro motivo che devo dissentire da quello che in qualche modo è scritto nella lettera. Quello non fu una scelta occasionale. No, io non posso accettare questa idea che poteva essere una scelta occasionale. Quella fu una scelta che veniva dal territorio. A quella scelta non collaborò solo l'amministrazione di allora, non collaborò soltanto le amministrazioni degli altri comuni, solo l'agenzia. C'era l'associazione degli allevatori, che mi ricordo bene, il consorzio con il suo presidente. C'era un gruppo di allevatori. E quella scelta che la provincia condivise veniva fuori da considerazioni estremamente semplici, allora valide e ancora oggi valide, anzi di forza e rafforzate, che vi voglio sintetizzare in alcuni punti, perché ce li ho talmente chiare che è come se fossero state l'altro ieri, non di 17 anni fa. Assenza di impianti. Guardate che l'assenza di impianti non è una cosa che si è verificata oggi. Noi gli impianti in questa provincia non li abbiamo mai avuti, e quegli impianti che c'erano e continuano ad esserci sono tutti da chiudere, tutti impianti comunali, tutti non adeguati alla norma CE. Questa era una delle considerazioni di allora che è ancora valida oggi. Tra l'altro, nei vari interventi che ho sentito, non è una cosa da condivisa. Consistenza del patrimonio zootecnico, e che c'è dubbio che noi abbiamo il patrimonio zootecnico. Allora, tra l'altro, più consistente, poi c'è stata una fase e una parabola discendente, ora c'è una leggera ripresa. Ma noi abbiamo il patrimonio zootecnico. Patrimonio zootecnico che ci porta però ad essere colonizzati. Colonizzazione dei ragusani. Considerazione di allora, considerazione ancora di oggi. Io questa cosa la dico sempre. Noi siamo colonizzati dalla Rosana, nell'agroalimentare, e in modo particolare nella zona di Pini. Assenza di iniziativa privata. E mi dovete scusare che dico questa cosa e la sottolineo. 17 anni fa c'era il consorzio regionale allevatore, c'era il qualche allevatore, ma dov'era l'iniziativa privata? Dov'era l'aggregazione? Dov'era i soggetti che si volevano aggregare? 17 anni fa, allora, si pensava solo al soggetto pubblico che doveva intervenire. Il soggetto pubblico ha risposto nella sua forma aggregativa migliore che oggi è da frutti, è l'agenzia del canone del Valdagno. Allora abbiamo impegni che oggi il sottoscritto non solo non vuole disconoscere, ma in buona parte già li ha realizzati, e chiaramente questa sera conferma quegli impegni. Il sito dove nasce il frigo macello, perché poi Palazzo? Perché già nel PRC del 1989 c'era il sito per il frigo macello. L'amministrazione di allora prese l'impegno che avrebbe fatto una variante per spostarlo dall'altro lato per motivazioni tecniche, che tra l'altro saranno scritte nella relazione, non è il caso che io ci ritorni, e fu fatta la variante nei tempi che richiedevano chiaramente la procedura del patto territoriale. L'amministrazione di allora e questa amministrazione ha rispettato l'altro importante impegno: portare l'acqua alla struttura, perché una struttura di quella non può nascere. Oggi qualcuno mi dice, visitando la struttura, ma capite l'acqua? Qua c'è qualcuno che l'acqua l'ha portata. E con un pizzico di fortuna, ma non solo di fortuna, ma cercando le cose, portando anche il metano, che non era previsto e non era neanche in previsione di 17 anni fa. Quindi, scelta occasionale, no, io non la posso accettare questa considerazione. Non la può accettare Sebastiano nel suo vissuto di questa vicenda, non la può accettare mio padre. Quella è stata una scelta consapevole e frutto di programmazione. Questa cosa la voglio sottolineare e la voglio evidenziare. L'altro impegno, io l'ho sempre detto, l'ho detto in sede di piano quando ne parliamo, l'ho detto in sede di incontri, è chiaro che aprendo il frigo macello chiude la struttura comunale. E quello che abbiamo nella struttura comunale, non abbiamo problemi a portarlo dall'altro lato, nelle forme, nei modi che saranno condivisi, che è possibile fare. E quindi qui c'è un altro motivo, in qualche modo, di, diciamo così, precisazione della nota. Il cambio delle carte, il comune non ha che cosa fare. Lui chiude la struttura e per anni messo a disposizione di quella che è la nuova gestione del frigo macello, tutta la cortelleria, tutte queste cose, è chiaro che possono essere utilizzate e saranno messe a disposizione. Io faccio notare però che allora alcune cose furono tagliate da quello che era il progetto originale. Tra queste, tutte queste di camion, i furgoni, non erano previsti, non erano consentiti. Questi sono ragionamenti che io mi ricordo bene, perché chiaramente si pensava subito a un qualcosa che poteva servire già allora. E guardate, non credo che in una struttura di questo il problema può essere il cancello automatico o nel gruppo elettrogeno, mi dovete scusare. Non possono essere questi progetti, non possono essere le cose portate ad esempio per non fare gestire o per non fare partire la gestione di una struttura. Condivido quando qualcuno dice ma non c'è la guardia mia, è un grande problema. È un grande problema. Perché l'assicurazione sì, ne sarà una cosa che si dovrà fare, ma è un grande problema. Perché già dal collaudo e dalla consegna delle chiavi lì ci sarà bisogno. Ci sarà bisogno di avere non due occhi che quattro, ma possibilmente quattro occhi che stanno messi là fino a quando non partono nella gestione giorno e notte. Giorno e notte è un grande problema. E qui ne vado alle condivisioni tra delle cose. Gli impegni presi allora ad oggi mantenuti, gli impegni che ci assumiamo oggi. In questo, diciamo così, consesso, in questo incontro, e questo già mi avevo detto nel sede di riunione con i sindaci, che è quello di poter assicurare quella che è la fase dei posti di lavoro. perché non abbiamo l'interlocutore, l'ha detto Paolo, ma lo sapete bene tutti, con chi dobbiamo interloquire. La proprietà della struttura oggi sulla carta non esiste, o per meglio dire si chiama consorzio, questo consorzio non ha una guida, hanno problemi esistenti che io aggiungo queste cose. Quindi da qui la difficoltà del dialogo, io sono perfettamente consapevole, lo siamo tutti, che oggi dovremmo avere già l'idea chiara sulla gestione, purtroppo questa non ce l'abbiamo. Ma è pure vero, e non deve essere una giustificazione, che non è che possiamo decidere noi e poi andiamo alla provincia e abbiamo deciso tutte cose, allora, se parla, cioè, dobbiamo trovare quella formula di condivisione con quello che è il proprietario della struttura per addivenire ad una soluzione che è la soluzione migliore per il territorio. E questi ragionamenti fatti negli ultimi mesi, prima ne abbiamo pensato nell'agenzia, giustamente, gestore del patto, soggetto che riunisce i soggetti, diciamo così, le istituzioni pubbliche e i soggetti privati, poi al precedente commissario non andava bene dell'agenzia, ma l'ha detto personalmente, che si sono andati 2 o 3 volte a trovare, a sollecitare anche per la conoscenza di che c'è. Poi abbiamo pensato all'Unione, l'Unione l'abbiamo scartata perché non è tra i servizi che può gestire, perché altrimenti dovremmo andare in tutti i consigli comunali e passare questo servizio nell'Unione, quindi di tempi si allunga. E allora abbiamo pensato la cosa più semplice in questo momento a dirsi, ma che poi piano piano si deve costruire, ne viene l'aggregazione di soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 30 del testo unico 267 del 2000, per aggregazione che si costituisce per gestire determinate funzioni, in questo caso di quello che è il discorso dell'ammortatore. E da qui la lettera, diciamo così, redatta da parte del territorio, da me sottoscritta nella qualità di soggetto, diciamo così, in questo momento una capofila in rappresentanza dei comuni di questo territorio e che sono i comuni dell'Unione, di dire c'è potenzialmente l'idea di fare una prevenzione di comuni, anzi siamo convinti, ti chiediamo l'impianto in concessione, te lo chiediamo a quelli che sono, diciamo, gli accordi da definire, visto che non possiamo in questo momento intervenire noi come se fossimo, diciamo, i proprietari della struttura, che di fatto lo siamo, e dire te lo chiediamo a queste commissioni. Vediamo ora il nuovo commissario al quale è stata recapitata questa lettera e dal quale aspettiamo, diciamo così, quando meno una risposta o di incontro o una risposta interlocutoria delle scritte, quale sarà la risposta che ci darà. Ma vi assicuro, perché questa è la cosa che ci tengo a sottolineare, che formula precostituita non ne abbiamo, che non abbiamo pregiudizi, che non siamo chiusi a cercare di evitare quelli che possono essere i consigli, quelli che possono essere i suggerimenti, quelli che possono essere le disponibilità a poter ipotizzare, immaginare, costruire quello che è la forma e la modalità di gestione di questi impianti. Su una cosa, ritorno per rassicurare tutti, ho preso un impegno personale, perché chiaramente alcuni comuni mi hanno detto non ne cercate soldi, perché soldi non ce n'è, è uno di quei ragionamenti diciamo chiaro che si comprende. Ho preso per bene che appena consegnano le chiavi, se il commissario ci dà subito la concessione, noi ci attiveremo, e questo è anche un impegno che rivolgo al consiglio, per poter assicurare quello della custodia, quello della guardia necessaria per poter presentare l'impianto d'atto di vandalismo nelle more che si possano definire, che si possano avviare quella che è della gestione dell'impianto. È chiaro, nei miei desiderati, nei vostri desiderati, nella nostra convenzione c'è il coinvolgimento del territorio. Noi lo sforzo e il massimo impegno lo stiamo mettendo, ci siamo già intesi, cioè abbiamo raggiunto questa intesa tra l'altro per iscritto di costituire questa forma aggregativa di soggetti pubblici che si sono candidati, che si sono proposti per avere concessione dell'impianto. è chiaro che auspichiamo dall'altro lato che ci sia una, diciamo, l'iniziativa delle private, che ci siano le sollecitazioni delle forme aggregative dei soggetti privati di questo territorio, che possono diventare complementari a quella che è l'aggregazione pubblica, o meglio ancora l'aggregazione pubblica essere complementare a quella che è l'iniziativa privata. Io sono convinto, se passiamo questa cosa, te l'ho detto, che non c'è spazio né per le prove. Quindi o si parte con piede giusto o rischiamo di mandare la struttura fuori dal mercato, perché una prova potrebbe durare un lasso di tempo limitato a qualche mese, ma una prova con un lasso di tempo limitato da qualche mese ci può consentire soltanto di verificare la funzionalità degli impianti e magari di chiedere all'impresa di aggiustare alcune cose. Ma è chiaro che nel contempo va portata avanti una procedura per arrivare a quella che è una forma di gestione, la forma di gestione definitiva dell'impianto. E vi assicuro un'altra cosa, e questo è anche il motivo che io un pochino su questo aspetto diciamo lo terrei in grande considerazione. Il soggetto pubblico o questa forma di aggregazione pubblica, a mio avviso, deve mantenere soltanto un ruolo di supervisore e di controllore, non deve andare al di là di questo, perché nel tempo si potrebbero innescare anche meccanismi che porterebbero a perdere di vista la visione gestionale, che non può che essere di carattere imprenditoriale, di questa che è una piccola industria, e questa piccola industria è calata in questo territorio. Se oggi ne parliamo, evidentemente abbiamo qualcosa di importante sul quale ne riflettere e da poter portare avanti nell'interesse di questo settore. Grazie, signor Sindaco. Credo che possiamo giungere alla conclusione dei lavori e ringrazio chi ha partecipato ai consiglieri, il pubblico, e spero che ci sente. E spero che esperienze di questo tipo possano essere ancora, sono sicuramente esperienze che ci fanno crescere come consiglieri e come attori di questa nostra collettività. Grazie a tutti e buonasera. Ricordo ai consiglieri che ci l'appuntamento per il 12 venerdì 12 e anche il consiglio comunale. Posso chiedere alla presidenza di dare un tempo insieme degli incontrati qui per capire se l'iter che siamo messi in campo è un iter che va avanti? Assolutamente sì, signore, se non appena abbiamo il consigliamento di nuovo con grande impegno oggi. È pensato, il tavolo già è stato un centro del tavolo che abbiamo voluto istituire e che deve essere integrato ad ogni proposta del territorio, è già pronto per essere integrato, per cui già da domani siamo pronti a istituire e a convocare il tavolo che dovrà pensare a questa cosa. Aggiungo semplicemente che quello che ha detto Carlo, il pubblico come coordinatore e responsabile della